Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Dimmi, professor Chiesa, lei ha mai fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Mi fa pensare un po' agli anni 70, io non so per quale. L'autostop solo quando guidavano delle belle ragazze. Bravo. Eccolo là. Elegantissima, come al solito sei tu. Buongiorno alle mie conduttrici che mi accompagnano durante le mie lunghe ore in macchina. Torpedo blu. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Nicodemo della crisi, lui che va al spending casino. Review, austerity, stress test, chi più ne ha più ne metta. Nicoletta, non ti sto parlando di mercati finanziari, non guardarmi con quel punto interrogativo sul volto. Ormai questi termini del gergo macroeconomico sono entrati nella casa di tutti, un indicatore lo dice chiaramente, il carrello della spesa. L'ingresso al supermercato ha trasformato ormai gli italiani in trapezisti del bilancio, fanno talmente tante acrobazie per arrivare alla fine del mese che hanno ridotto le scelte di consumo al punto che la spesa media mensile è tornata indietro di 10 anni. Eh sì, lo abbiamo visto tutti, la fotografia che ieri è stata diffusa dall'Istat, e bastano alcuni dati per rendere l'idea. Diminuisce del 3,2% la spesa per la carne e aumentano le famiglie che hanno ridotto la quantità e la qualità dei generi alimentari acquistati. Sono aumentate ancora le famiglie che si rivolgono all'hard discount. Oggi con i nostri ospiti cercheremo di andare ancora un po' in profondità per capire che cosa sta succedendo, quali sono le difficoltà delle famiglie, le soluzioni che si trovano per arrivare a fine mese riempendo comunque almeno nell'essenziale il carrello della spesa. E allora, mano alla cornetta, 800 24 00 24, come è cambiata la vostra spesa? Vi ritrovate anche soli in una di queste tre tendenze? Comprate meno carne? Fate spesa all'hard discount? Avete ridotto la quantità del cibo che comprate e rinunciate consapevolmente qualche volta anche alla sua qualità? Fateci degli esempi concreti. E il consumo di carne cala per colpa della crisi, non resta però che fare, come si dice, di necessità virtù. La proteine fornite dalla carne possono infatti essere alternate o sostituite con quelle provenienti dai legumi in abbinamento ai cereali, una combinazione che un tempo veniva chiamata la carne dei poveri. Ne parleremo con il dottor Massimo Gualerzi nella seconda ultima parte della trasmissione a partire da mezzogiorno, e questa è anche un'occasione, direi, per fare un po' di chiarezza, perché spesso le convinzioni che abbiamo riguardo alle proteine animali e la carne, quella rossa in particolare, sì, per tutti un po' sinonimo, no, di proteine, di sostanza, dice la nostra mamma, sono frutto più che di documentazioni scientifiche, di credenze popolari. Se volete prenotare i vostri interventi, 800 24 00 24. Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Pronto? Sì? Sono la governante del Conte di Simone, largo Arenula 2. Vorremmo un etto di carne! Un chilo, che metto? Un chilo di carne, di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? Conte di Simone, largo Arenula 2. Grazie, buongiorno. Buongiorno! Non dimenticavo. Dia a suo figlio il resto di 100.000 lire, perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Sia tranquilla, sarà fatta. Grazie, l'aspetto, buongiorno. L'imperdibile Febbre da cavallo con Enrico Montesano e Gigi Proietti, un altro, tutto un bel cast. Insomma, nel 2013, tutto questo per dire che la spesa di carne è scesa, appunto, lo scorso anno del 3,2%, ma in realtà la tendenza era già in atto da un po' di mesi. Questo nuovo dato risulta appunto dalla statistica dell'Istat pubblicata ieri, e chiediamo subito se si ritrova in questi dati a Giampaolo Angelotti, presidente nazionale di Fiesa, l'Asso Macellai, Federazione Italiana Esercenti Settore Alimentare. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E benvenuto a Cuore Denari. Questa è solo una media, lei potrà descriverci meglio la fisionomia di questo calo. Ne soffrono solo i macellai o tutti i produttori e rivenditori di carne, presidente? Beh, no, è indubbio che tutta la catena ne risente. Il macellaio è la punta dell'iceberg, la grossa distribuzione è soltanto una parte di quello che è la vendita. Poi così a scendere o a salire, se preferisce, dall'allevatore, quindi anche dal contadino, di qualsiasi tipo di carne, ne soffrono tutti di questo, quindi tutto il settore da questo punto di vista è in difficoltà. Certo, abbiamo una tendenza, come dicevo prima, Presidente, che ormai è in atto dal 2004, la gente ha consumato, gli italiani stanno consumando, qualche ascoltatore dice perché non dite noi italiani nel giro di 10 anni abbiamo ridotto il consumo di carne di almeno il 15%, le risulta che la percentuale è questa? Anche più alta, perché generalmente anche qua secondo i dati Istat si parla sempre di una media nazionale, poi questa media nazionale va scorporata per tipo di carne, va bene, l'abbiamo individuata che c'è un calo della carne rossa, ma anche per zona geografica, il sud è molto penalizzato da questo punto di vista. Quindi particolarmente al sud si è ridotto il consumo di carne. Poi andremo anche magari alle tipologie. Vorrei dare però il benvenuto anche a Ovidio Marzaioli, vice segretario generale del Movimento Consumatori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E agli ascoltatori. Buongiorno. Siamo partiti dal calo del consumo di carne, ma i dati Istat ci hanno ormai abituato periodicamente a commentare la tendenza al ribasso nei consumi degli italiani. E quindi niente di nuovo. Volevo dare una delle tante cifre che ieri l'Istat ha diffuso. 461 euro mensili, questa è la spesa mensile in beni alimentari di una famiglia media italiana. Nel 2012 si spendevano 468 euro, nel 2011 si spendevano 477 euro. Marzaioli, le chiedo appunto, visto che l'indagine diffusa ieri, ormai almeno nei tratti generali la conoscevamo perché sono tendenze ormai consolidate da qualche tempo, c'è qualche elemento nuovo che le ha suscitato particolare interesse? Esatto, sono delle fotografie di un paese in difficoltà ormai da 10 anni, non è che siamo una novità straordinaria. Il problema vero è che si stanno riducendo sempre di più quelle che erano le classi medie della nostra società, cioè una forbice che si sta stringendo da un lato, cioè appiattendo in qualche modo la parte meno ricca del paese e allargando la forbice invece nei confronti di coloro che sono i più ricchi e che hanno molte più possibilità di acquisto. Questi dati confermano delle tendenze che sono evidenti ormai da molto tempo e la difficoltà è data anche dalla scelta, cioè io più che sulla quantità, perché la quantità potrebbe essere anche qualcosa poi di cui parleremo sullo spreco, ma sì, è fondamentale la qualità del prodotto, cioè non si tende più a un controllo qualitativo e questo preoccupa principalmente sotto il profilo dei consumatori, cioè di cosa noi andiamo ad acquistare e soprattutto se ci sono controlli di filiera su quello che noi acquistiamo. Accennato allo spreco, non è possibile leggere anche questi dati come una maggiore maturità del consumatore, di noi italiani? Esatto. Compriamo meno anche per sprecare meno? Questo dato sarebbe una grande innovazione, ma credo purtroppo che questo sia solo davvero dato da una forte, fortissima crisi economica che impedisce alle famiglie anche un passaggio su quella della qualità, cioè il sintomo qualità, cioè è davvero l'elemento fondamentale, cioè se io riduco il controllo qualitativo del prodotto posso consumarne di meno e avendo delle qualità buone. Ma se questo è contestuale, la quantità con la qualità ridotta, significa che c'è fortissima crisi economica. Quindi quelle riduzioni di cui noi parliamo, purtroppo sono dei sintomi di una crisi gravissima che attanaglia l'Italia. Questa mattina c'è un interessante commento proprio su questi aspetti sul Sole 24 Ore della sociologa Monica Fabris, che appunto conferma come i consumi del settore alimentare tengano sotto il profilo quantitativo, ma degradano, dice, sotto quello qualitativo. Dagli anni 90 l'80% degli italiani ha sempre cercato la migliore qualità del cibo a prescindere dal prezzo. Si tratta quasi di un elemento identitario del nostro essere italiani. Ora lo fa soltanto il 57% dei nostri connazionali. Adesso torneremo anche alla carne, perché vedo che il dibattito ha suscitato appunto acceso, molte osservazioni. Perché parleremo anche del consumo di carne rossa, se ci sono, e ci sono delle alternative. Un'ascoltatrice sta scrive: ascoltatrice, non sappiamo, non si firma, con tutto quello che si è detto contro la carne rossa, i suoi effetti a livello colon, vabbè, meno male che se ne consuma meno. Parleremo anche di natura, naturalmente, col dottor Gualerzi di questo: proteine animali, proteine vegetali, proteine nobili di serie A e di serie B. Pasquale, buongiorno, ci chiama da Catanzaro, 800240024, chissà, magari ha una ricetta per noi per una spesa di qualità, risparmiando un po' di soldini. Buongiorno Pasquale. Buongiorno, sono Radio 24, io sono un vostro ascoltatore da quando è nata Radio 24. Bravo. E ho sentito sempre tutti i dibattiti riguardo a questo, sui consumi e sulle qualità. A riguardo ai prezzi del consumo alimentari, io faccio una statistica proprio da 30 anni e le posso dire che i prezzi sono abbastanza uguali a 30 anni fa, con scontrino alla mano, perché adesso è aumentata la quantità di roba che si produce nell'agricoltura. E perciò sono calmerati un pochino i prezzi. Quando l'Istat fa queste ricerche non li fa veritiere sul territorio, li fa in generale, prendendo in campione delle famiglie. Guardi Pasquale, devo dire che l'Istat, io capisco la sua contestazione, è anche vero appunto che si evidenzia sempre una spaccatura molto radicale fra il sud e il nord Italia. I consumi vengono fatti appunto con criteri molto molto diversi. Poi magari però su questo tema ci andiamo con l'Associazione dei Consumatori, che credo sia assolutamente consapevole di queste differenze. Però prendendo anche a spunto, tornando al consumo di carne, dall'SMS di Ilario da Brescia, che ci dice: noi abbiamo diminuito la carne, solo macinato e grandi offerte, tante altre cose rinunciamo, prepariamo tante cose in casa. L'Istat ieri lo dice, che il fai da te alimentare ormai è diventata un'abitudine molto diffusa. Si va meno al ristorante e si preparano più i pasti in casa, forse. Esatto, dolci e pane grazie anche ai reality. E poi dice Ilario, la qualità è diminuita un po'. Angelotti, presidente appunto dell'Associazione Italiana Esercenti Settore Alimentare, assomma, quali tipi di prodotti di carne hanno subito di più il contraccolpo della crisi? Che cosa gli italiani comprano molto meno o non comprano più? Quali tagli di carne, quali tipologie? Qua bisogna fare una classificazione dei consumatori, perché quando si parla di consumatori noi tendenzialmente li mettiamo tutti insieme. No, non è così. Abbiamo un 10-20% che comunque continua a consumare i tagli più pregiati, e anche le razze più pregiate. Qui stiamo parlando di razze come tipo la Chianina, come tipo la Piemontese, via di questo passo, in cui il prezzo medio va dai 35 ai 40 euro chilo, però è come dire il massimo per quanto riguarda una tagliata, una bistecca, via di questo passo. Poi abbiamo una parte intermedia che oscilla fra il 30 e il 60%, 70, che è quella che comunque si è adeguata per necessità, io dico, ha una vecchia antica usanza che secondo me, tutto sommato, poi, come dire, la crisi non ci ha portato male. Ritornare al self-made man, rifarsi il pane come si faceva una volta, rifarsi la carne, cuocersi le polpettine, quindi tutto comunque un aumento dei consumi, è un ritorno a quello che sono le ricette antiche, tipo le polpettine, tipo gli hamburger, anche un aumento dei consumi di frattaglie che abbiamo perso come abitudine di mangiare. Ai bolliti, ora a parte la parentesi stagionale, voglio dire, però il bollito è tornato in auge, per esempio, perché no, con un bollito con casa mia dalla mia mamma non è mai andato in disgrazia, le devo dire la verità, santi Dio, è un signor piatto. Noi abbiamo addirittura la confraternita del bollito in Italia, regione per regione, perché è una cosa meravigliosa. Quindi voglio dire, si ritorna un pochettino, certo, farlo cuocere due ore può anche per una donna moderna che lavora degli impegni, può essere un impegno, ma si cuocerà il giorno prima, voglio dire la sera quando si guarda la televisione, quindi c'è un riallineamento saggio. Potrebbe farlo un uomo, ad esempio. Potrebbe farlo un uomo, ma ci mancherebbe altro. No, però questo riallineamento permette di servire con il bollito un ottimo primo. Ma ci dica un po' le penalizzazioni più importanti, dove sono state e secondo lei a discapito di quale tipo di nucleo familiare? Perché ieri l'Istat ha anche detto che sono soprattutto le famiglie ovviamente monoreddito, le coppie con due figli. Certo, quelle con due figli, i divorziati, ci vogliamo mettere i single. I single, certo. Perché oggi il problema primario non è ciò che si mangia e quindi è un problema di cui stiamo discutendo, ma è come fare a pagare le bollette, signora, come fare a pagare i mutui, per cui io mi riallineo, non mi faccio mancare di niente, cerco di mantenere quelle che sono le tradizioni della mamma. Lo sbaglio è nel fatto che comunque io vado a comprare negli hard discount, perché anche il commercio mi insegna è fatto diversi piani, laddove comunque sì, compro la mortadella, però bisogna vedere poi cosa c'è dentro quella mortadella. Il problema più grosso è che noi ci stiamo allontanando. La mamma quando faceva i fiori di zucca fritti comunque li prendeva nell'orto. Ah, che buono. E comunque se li riempiva con la mozzarella e l'acciuga. È un po' un filettino d'acciuga. Ma... ecco. Però voglio dire, invece andare comunque a risparmiare sul cibo, secondo me ne va di mezzo anche la qualità. Poi non parliamo della pressione mediatica e vediamo la carne in questo momento. E noi faremo i conti anche con la salute, perché come ripetiamo spesso siamo quello che mangiamo. Certo. 800 24 00 24. Deborah, vado agli ascoltatori? Volentieri. Chi peschiamo? Jessica. Certamente. Buongiorno. Lo sai che noi siamo proprio donne. Buongiorno. Jessica, buongiorno. Buongiorno, grazie mille, è sempre un piacere ascoltarvi. Io volevo portare la mia testimonianza, che sono da poco andata a convivere con il mio fidanzato e abbiamo, come un po' tutti, deciso di tenere un budget, no, mensile, quindi abbiamo dato alla spesa più o meno un budget. Quant'è, sì. Jessica? Ci dica se corrisponde alle statistiche nazionali diffuse ieri. Allora, noi spendiamo all'incirca 150 euro il mese. Quanto? 100, 250? 150. Per la spesa alimentare solamente? Per la spesa alimentare. Ma pranzo e cena a casa tutti i giorni? Allora, noi facciamo la cena tutti i giorni, più preparo per il mio fidanzato il pranzo che lui si porta al lavoro, e poi chiaramente ci sono ogni tanto le cose per la pulizia della casa, ecco. Beh, è brava però, 150 euro. Cerchiamo, però ecco, per esempio... Ce la fa, Jessica, ce la fa? Ce la facciamo, siamo un po' dimagriti, perché abbiamo fatto almeno, siamo prontissimi per la... prova costume e prova vestito del matrimonio, siamo secchi, riminiti, però no, ho imparato tutte le ricette col pollo. E quindi niente carne rossa, diciamo quantomeno consumo molto limitato a beneficio di quella bianca, Jessica, questo un po' rimanendo sulla, sul tema appunto della carne, la scelta che è stata fatta nella sua nuova famiglia, per la quale noi le facciamo tanti auguri naturalmente. Grazie. Grazie Jessica. Grazie. Secondo te il dottor Gualerzi cosa dirà della carne bianca? Aspettiamo, lo scopriremo strada facendo. 800 24 00 24, ma già i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo messaggi e esprimono le loro opinioni riguardo sulle proteine animali, su quelle vegetali, meglio la carne di pollo, no, senza carne. Eccoci qua. Ne parleremo. Esatto. Lì. Volevo chiedere a Marzaioli un commento, però, perché sennò sembra che lo abbiamo veramente trattato con un po' di superficialità, un commento sull'osservazione che ha fatto Pasquale da Catanzaro, no? Che evidenzia come effettivamente un po' lo stile di vita sia molto diverso fra certe zone del nostro paese. Marzaioli, anche questa non è una novità, proprio per la tipologia di vita che viene condotta nel meridione del nostro paese, come dire, il budget che le famiglie devono mettere a disposizione è sempre molto più contenuto rispetto al resto d'Italia, per tutta una serie di motivazioni naturalmente. Però sembra che lì l'euro non sia arrivato a Catanzaro, da quello che dice Pasquale, perché dice i prezzi in 10 anni, se vado a vedere lo scontrino medio, sono uguali. Ma questo, ho qualche dubbio, però giusta l'osservazione, ma l'Italia è un paese straordinario comunque, devo dire la verità, sta crisi che è così forte permette poi addirittura alla nostra ascoltatrice di fare la prova costume, mi sembra una cosa veramente incredibilmente straordinaria per le attività di fantasia italiana. ritornando serio, la verità è che questo 10-20%, come diceva il dottor Angelotti, è una cosa interessante, perché è esattamente quel dato che permette di capire quanto si è diversificata e soprattutto allargata quella forbice di, fra ricchezza e povertà. Questa è veramente un dato importante. Se il 20% continua a consumare carne di qualità, mi preoccupa per il resto dell'80%, che evidentemente ha cominciato a ridurre quella qualità agricola o qualità alimentare, che è invece una delle eccellenze italiane. Certo. Non dimentichiamoci che noi siamo la nazione della biodiversità, che è eccezionale come cosa. Noi, ogni territorio ha un suo prodotto alimentare, agricolo, particolarmente importante e molto, molto, come dire, della zona lo fa una sua specificità e originalità. Quindi tutta questa situazione è in qualche modo una dimostrazione che quei dati sono veramente lo specchio della crisi italiana. Cuore e denari. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Il calo dei consumi di carne è uno dei tanti effetti della crisi, ma non tutto il male viene per nuocere. Ce lo state scrivendo al 349-238-6666 e forse avete ragione, perché questa può essere un'occasione per rivedere un po' la composizione della nostra dieta. Quante volte alla settimana mangiate carne? Forse senza accorgercene si rischia un po' di esagerare. Una premessa: nessuna patologia è causata soltanto dal consumo di carne e non vi è una relazione di causa ed effetto diretta e assoluta tra il consumo di proteine animali e l'instaurarsi di una data patologia. Tuttavia, medici, ricercatori, nutrizionisti, insomma la comunità scientifica, diciamo, concorda sul fatto che le persone che seguono diete ricche, eccessivamente ricche di proteine animali, soprattutto carni rosse, hanno un maggior rischio di sviluppare malattie come diabete, infarto, problemi cardiovascolari, obesità e tumori. Ci sono delle alternative interessanti che non pesano sul nostro portafoglio e fanno bene alla nostra salute. Ne parleremo insieme al dottor Gualerzi. Questa sarà anche un'occasione, lo anticipo agli ascoltatori che già ci stanno scrivendo, per fare un distinguo anche per chi continua e vuole mangiare carne tra la carne di pollo e quella di cavallo, la carne di manzo, la carne rossa. Ma parleremo anche di come la dieta può essere equilibrata e salutare, anche riducendo, sostituendo la carne proprio con altre combinazioni. Una fra tutte è la carne dei poveri, i legumi, ma già ci sono ascoltatori che ci chiedono: ma io i diverticoli, i legumi non posso mangiarli. Vi chiedo di aspettare, 800 24 00 24, con Deborah affronteremo proprio questo tema in chiusura di trasmissione. Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? Da chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo sciacquettino? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casaduoglio? E parvagliaro? Il bottegaio. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 chili di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Poi ti fai una bella buatta di pomodoro, perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrrtata, trrrtata. Te la fa davanti a te, chiaro? Vogliamo fare la bella padellata di uova? Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli, se no desisti. Una bella padellata di uova. Esatto, una bella frittatona. Bella. Noi stiamo continuando a commentare gli ultimi dati Istat sui consumi degli italiani e voi state continuando a raccontarci come è cambiata la vostra spesa, ci state raccontando dove fate la spesa. Noi avevamo promesso anche di fare la spesa insieme a Giampaolo Angelotti, presidente nazionale di Fiesa Asso Macellai, perché naturalmente ci deve dire come possiamo combinare e bilanciare bene, no? Una spesa di qualità insieme alle esigenze del portafoglio. Poi ci sono anche dei messaggi interessanti da parte di alcuni ascoltatori sull'aspetto toccato prima da questa giovane coppia che si è formata proprio da poco e che mette nel budget per la spesa alimentare 150 euro al mese, e molti chiedono come fanno a fare quei salti mortali. Allora, presidente Angelotti, qualità e portafoglio nella carne, ci spiega come li possiamo mettere insieme? Ma niente di più facile. Tanto cominciamo a dire che noi come macellai condividiamo il concetto di troppa carne fa male. Nessuno nella cucina italiana si è mai sognato di mangiare carne tutti i giorni, è soltanto l'effetto, come si dice, del consumismo moderno, adesso siamo nel post-consumismo, ma comunque si continua a banalizzare un prodotto che di nascita è nobile, che ha un grosso impatto economico in tutta la nostra penisola. Poi, se vogliamo, facciamo una discussione con altri per l'agnello, il coniglio, è diventato un animale da affezione, però abbiamo sfamato generazioni con queste carni qua. Quindi, voglio dire, non stiamo parlando di stupidaggini, stiamo parlando di cose serie. Per cui, come dire, basta tenersi semplicemente a quelle piccole regole che si tenevano una volta. Nessuna famiglia, io mangiavo il brodo la domenica perché si mangiava il brodo, qualche volta si mangiava la cotoletta, si poteva fare il sugo una volta alla settimana, all'inverno di carne, d'estate di pomodoro. Certo. Vuol dire, con un pollo ci mangiavamo una famiglia e tale è rimasta. Bisogna semplicemente attenersi non alle mode, non al consumismo, ma a un po' di sana, come si dice, giudizio nel consumare anche queste cose, perché non credo che mangiare una padellata di fagioli abbiamo risolto il problema, voglio dire. Quindi ci vuole un po' di equilibrio in queste cose. Io poi rispetto tutti, sono una persona democratica e non mi permetto di andare a sindacare se uno sta bene se mangia cipolle, chiaramente, però io le posso dire che io ero ancora ragazzo, io mi ricordo le povere donne che erano carenti di ferro, che andavano a prendere il sangue caldo in macelli e se lo bevevano. Questa è verità, signora. Quindi, voglio dire, andiamo poi da buttare via l'acqua sporca col bambino. No, certo. Oggi facciamo... voglio dire, una semplice, una buona, con un pollo, oggi ci sono dei bellissimi polli di 3 kg, 2 kg e mezzo, che hanno un prezzo medio di 5 euro al chilo, quindi con 12 euro lei ha un mezzo chilo di petto da cui può ricavare 6 fettine e farci 6 cotolette, e con le ali, le cosce e la schiena può farci un bellissimo spezzatino con una moltitudine di verdure, che è anche uno dei piatti non soltanto italiani ma mediterranei più diffusi. Va bene, allora ritorniamo ai nostri ascoltatori e diamo la possibilità al nostro esperto magari di dare delle indicazioni, partendo proprio dalle loro segnalazioni. Tina ci scrive: consumo meno carne perché non ho più la sicurezza della qualità, troppa carne dall'estero, troppi casi di animali malati macellati e immessi nei mercati. Vogliamo provare a dare delle informazioni, perché tante volte ci sono queste leggende metropolitane che corrono, poi dottore. Anche qui facciamo chiarezza, ed è giusto che la gente sappia, come diceva il nostro presidente Renzi del Consiglio, non bisogna mai piangere addosso. Il sistema sanitario veterinario nazionale italiano è il più severo d'Europa. Abbiamo passato indenni la mucca pazza, non abbiamo avuto morti tranne che due casi, di cui uno non si sa perché, l'altro perché era stato in Inghilterra, quindi anche lì una tempesta in un bicchiere d'acqua. Una severità unica, e se si seguono quelle che sono le linee ufficiali, quindi all'interno della grossa distribuzione, non voglio per questo citarne di meno, ma anche di questo passo di macellai, dove c'è l'obbligo di mettere in vetrina quelli che sono la tracciabilità, non è una parola vuota, abbiamo anche una sede a Teramo che è, come si dice, l'anagrafe dei bovini in Italia. Tutto ciò che nasce e tutto ciò che muore in Italia viene tutto registrato, ogni bestia ha il suo certificato, la sua carta d'identità. Questo nel circuito ufficiale, nel circuito dove un qualsiasi, si ricordi che noi abbiamo la bellezza di 12 corpi che possono entrare in un qualsiasi negozio e fare le dovute indagini su quello che si vende sul banco. Quindi se le spese vengono fatte all'interno di questo circuito non abbiamo nulla da temere. Ok. Se abbiamo, le ricordo però che in Italia è ancora in uso l'abigeato, non so quante migliaia di animali scompaiono. Il reato di abigeato, sì. Esatto. Le posso dire che comunque questo discorso della carne, non so cosa mangio, lo possiamo trasferire anche al pesce. Certo. L'ultimo scandalo del pesce ad Arezzo, lei mi dica se ad Arezzo abbiamo il mare o se abbiamo un aeroporto che ci porta pesce fresco. No. Un tantinello di allora, buona... le propongo anche un altro sms e lascio poi la parola a Deborah. Cosa dire della carne di maiale, ci scrive un ascoltatore, della scadenza delle confezioni nei supermercati? Spesso mi sembra che alla scadenza la carne venga poi macinata e a questa aggiunto del colorante. Presidente Angelotti, questa l'aveva mai sentita? questo non lo posso dire, nel senso che per me io ho tanto a cuore una persona, posso rubarle un minuto? Certo, no? Abbiamo un minuto di tempo, se prima del traffico. Io ho una persona, guardi, che è siciliana di Catania, che mi ha scritto perché sua figlia era allergica a quelli che sono i conservanti nella carne, no? Mm. E quindi poverina lei l'ha mangiata, in questo momento poi è andata in fin di vita, poi alla fine è diventata un vegetale. È un caso che io ho preso a cuore proprio perché su queste cose qui, io ripeto ancora una volta, la salute è un bene che non è negoziabile. Mm. Quindi tutto ciò che serve per quanto riguarda ciò che si mangia e qualunque, coloro che vanno fuori da questo lato, insomma una persona la possa ammazzare con una pistola come col cibo. Per cui io diffido e dico ai consumatori, badate ciò che mangiate, perché una mortadella, se il costo medio è 10 euro al chilo, 12, 15, e vediamo, e la si ritrova a 5, ecco, la trovi a 5, vuol dire che dentro quella mortadella c'è sì carne di maiale, perché non potrebbe essere diversamente, ma magari viene da chissà da dove viene, chissà con cosa è composta, che coloranti ci hanno messo, che tipo di conservanti ci hanno messo, vedi questo passo, tutte cose. Ma questo vale per tutti i prodotti, è certo che vale per tutti quanti i prodotti, non solamente per la mortadella. L'olio a 2,50 euro, voglio dire, sta sulla luna, no? L'olio extravergine d'oliva, viene un tantinello un sospetto di dire ma cosa sto comprando? Poi se con quello non ce la fai a pagarti la luce, l'acqua, il gas, il telefono, il mutuo, l'assicurazione, le gomme, la scuola, il telefonino, questo è un altro discorso. Angelotti, è stato chiarissimo, è stato chiarissimo, è stato chiarissimo, talmente chiaro che adesso dobbiamo salutarla, per cui scolpiamo sulla pietra questo suo messaggio finale, andiamo a sentire adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andremo però anche al mercato, Nicoletta, perché oggi non ci siamo fatte mancare niente. Cuore e denari. Eccoci ritrovate in diretta, allora naturalmente c'è grande attesa per l'intervento del dottor Gualersi, perché ci racconterà tutte le proprietà nutrizionali della carne a seconda della tipologia che ci piace consumare, le alternative alla carne, rosso, bianco, quello che volete, ma noi vi abbiamo chiesto questa mattina anche dove fate la spesa, supermercato, discount, or discount, negozio e quindi macellaio sotto casa. In passato abbiamo parlato, anzi lo facciamo quasi sempre, della grande distribuzione, abbiamo visto che però oltre ad aumentare la spesa negli hard discount ci sono anche altri cambiamenti che vogliamo tenere un po' sotto controllo e osservare con occhio appunto vigile, e oggi appunto parliamo anche del mercato, perché in realtà ancora ci piace, lo facciamo noi soprattutto, Nicoletta, il sabato mattina, no? Ci piace fare un giretto, io vado a quello dell'isola ammettendo che naturalmente in tutto barca, il fango che c'è da ieri appunto barca, venga presto liberata questa bellissima zona di Milano. E allora per chi invece preferisce e ancora continua a frequentare il bancone del mercato, le bancarelle, chiediamo un po' come stanno andando le cose a Giacomo Enrico, presidente della FIVA, Federazione Italiana Venditori Ambulanti Aree Pubbliche di Confcommercio. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come è cambiata la modalità di fare la spesa degli avventori del mercato, presidente? Che come commenta lei i dati dell'Istat che sono stati pubblicati ieri? Non è mai cambiata, perché noi abbiamo sempre avuto la clientela, la gente che viene al mercato, perché il mercato è vita, socialità, al mercato, lei dice che va al mercato dell'isola, le dico che fra quattro giorni, fra due o tre settimane per esempio ritornerà, il pezzo ritornerà via Volturno. Perché finiti i lavori della metropolitana il comune ha rispettato gli accordi e quindi il mercato torna, l'appendice di via Volturno che era stata dislocata in altre vie a danno degli ambulanti, ma c'erano i lavori della metropolitana, non potevamo certamente dire di no, e quindi tornerà. Cioè, il mercato è sempre stato il punto di ritrovo. Al mercato la gente va a comprare il pesce, va a comprare la frutta, la chiede di una certa maturazione, la devo mangiare in settimana, me la devo un po' più matura o meno matura. Abbiamo il consiglio anche del fruttivendolo che sta lì. E poi le ricette che nascono al mercato, quando sei in coda, prende i teneruni, li metta con le lenticchie, quindi, si faccia un soffrittino, magnifico. Io ho piacere di parlare con delle donne, perché voi siete la nostra vita, i nostri clienti, siete quelle che venite al mercato perché vi piace piace, perché è così. Il mercato ha avuto solo un difetto, e questo lo imputo agli ambulanti: non farsi pubblicità. Noi non abbiamo mai investito in pubblicità per spiegare alla gente qual è la ricchezza che si trova nel mercato ambulante. Beh, da oggi allora, visto che le è venuta qua in diretta questa idea, Presidente, adesso ci aspettiamo una bella campagna pubblicitaria. Senta, il settore alimentare al mercato che stato di salute ha? Perché appunto prima parlavamo della frutta e della verdura, lei diceva, ricordava appunto come anche il pesce naturalmente sia venduto in grande tranquillità presso le aree pubbliche, appunto dove sono allestiti i mercati, ma ecco, è una scelta che viene fatta in maniera molto, molto intensa dalle famiglie italiane, quella di comprare prodotti alimentari al mercato? Allora, è una scelta che viene fatta non è una scelta casuale, è una scelta che viene fatta consapevolmente. Consapevolmente. Beh, per esempio, un dato che sicuramente voi non conoscete, ma è normale, è quello che il 70% del pesce venduto nella città di Milano si vende al mercato. È un dato della SOGEM, è un dato del mercato all'ingrosso milanese, non è un dato mio, è un dato certificato. La frutta e la verdura tiene perché noi abbiamo la capacità di modularci a seconda delle zone che andiamo, cioè sappiamo, studiamo il trend, la capacità di spesa della gente di Quarto Giaro piuttosto che di Comasina, piuttosto che via San Marco, piuttosto che via Fusce o Papignano, e ogni giorno siamo camaleontici e ci moduliamo in relazione alla capacità di spesa del quartiere. Io sostengo, ma non da adesso, sostengo da sempre, che se il popolo dei 1000 euro al mese è riuscito a sbarcare il lunario, lo deve anche il mercato ambulante. Ci moduliamo alla capacità di spesa del quartiere, senti che bel concetto che ha espresso il nostro Presidente. E questo, e su questo cavalcherete la vostra campagna, mi sembra che sia un tasto. Guarda, il giorno in cui scriverò le mie memorie, mi divertirò a scrivere queste cose qua, perché e quindi cita Cuore Denari. Noi andiamo ascoltatori, un po' agli ascoltatori. Andiamo. Abbiamo Maria Luisa che ci chiama dalla provincia di Roma, e poi andiamo subito a Brescia perché c'è Lorenzo che ci aspetta. Esatto. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, è sempre validissima. Va al mercato lei, Luisa, a tempo? Sì, io vado al mercato, io ho 67 anni e in pratica ci vado perché conosco i produttori. Venendo, diciamo, vivendo da oltre 15 anni nella provincia di Roma, in pratica utilizzo per avere i prodotti costo zero. Però non nascondo che il mercato dove io vado, diciamo chilometro zero, no costo zero, chilometro zero, ma i prezzi sono altissimi, molto più alti dei supermercati, certo. Ed è provincia. Evidentemente, cioè, Maria Luisa, perché i produttori chiaramente mettono in vendita qualità inferiori, non possono fare leva, no, sulle grandi quantità. Enrico, il problema è un po' questo, immagino, che un conto è negoziare con la grande distribuzione, un conto è doversi pagare la bancarella, il posto al mercato, no? E tutto quello che c'è il grosso di mezzo. Problema della grossa distribuzione che ha sempre avuto e che non riuscirà mai a risolvere è che non riesce a dare il prodotto della freschezza che dà il commerciante ambulante, perché l'ambulante si alza la mattina alle 3, va sul posto, compra la verdura e la frutta appena raccolta e la porta sul mercato, non passano dalle celle frigorifere. Quindi questo è un, se si parla di costo zero, di non geneticamente modificati, si parla, perché alla fine poi queste cose ci costano. Non è che, però a me risulta strano, se mi dice il paese esatto della provincia di Roma provo a indagare. Subito fa un blitz. Allora Maria Luisa, dove la troviamo a fare la spesa? Capena. Come? Capena, sono neanche 28 chilometri da Roma, e ci sono alcuni, diciamo, di questi che hanno il banco, che hanno le terre, diciamo, qui vicino in Sabina. Logicamente le pesche che io compro lì, o i fagiolini o i pomodori, sono cotti due giorni prima, certo. Per cui diciamo il vantaggio è quello, però proprio perché non hanno costi di trasporti queste cose. No, attenzione, signora, posso chiederle se sono produttori agricoli o sono ambulanti? Perché no, c'è una differenza. No, sono ascoltatori, produttori. E allora non c'entro niente io. Allora, niente. D'accordo. Sono produttori, quindi non c'entriamo infatti niente. Infatti, lui diciamo il chilometro zero. Qui bisognerebbe interpellare Col Diretti, certo, Campagna Amica, esatto, tutte le altre iniziative. Finti mercati ambulanti. Ecco, però abbiamo apprezzato di Giacomo Enrico subito, no? La sua generosità. Vado a vedere. Andiamo a Lorenzo, che ci chiama da Brescia. Buongiorno. Dice, non ci sto dentro. Lorenzo, buongiorno. Lorenzo si è stancato, voleva raccontarci che ha un nucleo familiare con due figli, proprio quello che l'Istat ieri ha certificato è in maggiore difficoltà, non ci stanno dentro con i soldi, comprano tanto latte, cereali, minestroni con fagioli e legumi, ma il tema è che sono cresciute le bollette e le tasse. Lorenzo, ho detto io tutto quello che lei voleva dire, mannaggia. No, c'è altra cosa da dire. Volevo ribadire anche ai suoi colleghi, allora quello lì che dice che 1.000 euro sbarca lunario, se assolutamente non è vero, non sbarcano sul lunario, personalmente ho venduto tutto l'oro, uno. Secondo cosa, quello che dice... No, che Lorenzo, è... però piano, perché io non capisco, se no, Lorenzo, vada piano. Dicevo che quello lì che diceva prima l'interlocutore, se gli italiani sbarcano il lunario con 1.000 euro al mese, no, non è vero niente, non si sbarca il lunario perché io ho venduto tutto l'oro, uno, e vado in prestito. Seconda cosa, se non paghi le bollette, eccetera, come diceva l'altro, ti chiudono il metano come hanno fatto con me. Terza cosa, inutile, io ho adesso ho cambiato, certo che ho cambiato per forza, la carne la mangio 2 o 3 volte alla settimana forse, poi mangio latte, pasta e poi legumi, facciamo i legumi. Lorenzo, grazie della sua accuratissima testimonianza. Chiudiamo magari con un commento finale di Ovidio Marsaglioli, che ci ha ascoltato fino a questo momento, quindi l'Associazione dei Consumatori, che raccoglie anche dai microfoni di Radio 24 una testimonianza che già credo arricchisca il vostro lavoro quotidiano, no? Marsaglioli, certo, in 10 secondi. Assolutamente, c'è solo da vedere effettivamente qual è il consumo e quali sono i consumi reali. 1.000 euro effettivamente è una cifra che non riesce, non ti permette di vivere in una società come questa. Benissimo, Nicoletta, che ci... Soprattutto in città. Cuore e denari. Dio un po' tu, era tuo amico quello? Io non ho amici. Senti che odore! Sono fagioli con le cipolle, Ah, è vero. Sì, è vero, però sono miei. E siamo tornati insieme. Oggi continuiamo a parlare della nostra spesa. Ci siamo soffermate su un dato. Gli italiani, anzi noi italiani, consumiamo meno carne. Voi quanto ne consumate? Di quale tipo? Oppure fate parte degli oltre 5 milioni di italiani che hanno fatto una scelta vegetariana o vegana, un trend che, stando alle ultime ricerche, è in aumento. Secondo infatti il sondaggio dell'Osservatorio Nazionale di Last Minute Market, presentato proprio in questi giorni al 5° Festival Vegetariano al Castello di Gorizia, la percentuale dei vegetariani e dei vegani italiani è salita al 9%, 2 punti in più rispetto a rapporto Italia di Eurispes del 2013. Se avete fatto questa scelta, siete invitati a parlarne con noi. Ci ha raggiunto, come anticipato, il dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno, dottor Gualerzi. Buongiorno a tutti voi. Cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, è autore di un libro che io amo citare spesso, che a me e a Deborah mi è piaciuto molto, e anche a voi, perché chi lo legge mi scrive per ringraziarci di averlo segnalato, che è Super Salute. Dottor Gualerzi, parliamo delle proteine, che sono nutrienti fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo, e quindi sceglierle di qualità significa prendersi cura del nostro corpo, salvaguardare la salute, sin qui siamo tutti d'accordo. E tutti sappiamo che le proteine non sono tutte uguali, ci sono quelle di origine vegetale e quelle di origine animale, però è opinione comune che queste ultime, quindi le proteine animali, abbiano una marcia in più rispetto a quelle vegetali, convinzione supportata dal fatto che non a caso si chiamano proteine nobili e la carne insieme a pesci, latticini, uova ne è un'ottima fonte. Ma noi di carne oggi vogliamo parlare perché alla carne, che in parte la crisi ci chiede di rinunciare, forse questo non è poi un male. Ma dottor Gualerzi, facciamo un distinguo. Sì, diciamo che appunto non tutti i mali vengono per nuocere, infatti cioè, ridurre un po' la carne rossa, soprattutto per chi come noi è abituato a mangiarne tanta, diciamo che è bene. Infatti ormai esistono numerose attenzioni scientifiche sulla carne, sul suo utilizzo e sulle malattie. e sappiamo che soprattutto la carne rossa assunta in modo, diciamo, inappropriato e quindi abbondante come spesso facciamo è in grado di infiammare e favorire la genesi di malattie degenerative, anche perché spesso si associa sia a modi di cottura che generano, diciamo, sostanze tossiche, sia perché le carni, soprattutto quelle rosse, portano con sé i famosi grassi saturi che sono al centro delle malattie. Per quanto riguarda il fatto che si chiamino nobili, poi magari vedremo meglio, ma in realtà è anche questo un falso mito, nel senso che sono nobili in quanto le proteine della carne contengono tutti gli aminoacidi fondamentali per la nostra vita e che devono essere presenti nella dieta. Ma si chiamano nobili perché appunto li contengono tutti, ma anche le proteine di origine vegetale contengono questi aminoacidi. È logico che per mangiare in modo vegetariano bisogna essere più capaci di combinare i cibi, perché non è detto che in un alimento proteico vegetale siano contenuti in solo in quell'alimento tutti gli aminoacidi, quindi vanno combinati insieme. E spesso le convinzioni che abbiamo riguardo alla alle proteine sono proprio frutto più che di documentazioni scientifiche, di credenze popolari. Ne le passeremo in rassegna. Intanto 800 24 00 24, se volete parlare del vostro consumo di carne, se invece avete fatto una scelta vegetariana o vegana e volete raccontarci come avete riequilibrato la vostra dieta. Dicevamo, la carne, il consumo, la carne costa, si cercano delle alternative, c'è anche la, così è sempre stata chiamata, la carne dei poveri, i legumi, ne parleremo naturalmente col dottor Gualerzi, ma in linea abbiamo Flavia che ci chiama da Padova. Buongiorno Flavia. Buongiorno, eccomi qua. Eccola. Allora, io sono vegetariana da 16 anni. Sì. E mi sono accorta di una cosa, che prima mangiavo quasi sempre le solite cose, la bistecca appena arrivata a casa, la scatola di tonno e così via. Adesso devo variare di più e stare attenta. I miei esami sono donatrice di sangue, sono migliorati notevolmente, non sono più anemica, perché ho unito ai legumi il limone, mi diceva la mia dottoressa. Io metto limone fresco dappertutto e questo ferma il ferro, secondo lei. Sì. E appunto, perché il limone è fonte di vitamina C. Questo è, esatto, un bel tema che sicuramente piacerà al dottor Gualerzi. Io lo mangio tantissimo. Quando mangio c'ho sempre il limone in tavola, per cui, e dice, questo è stato fondamentale per il ferro. E in più ho imparato proprio a variare, se prima mangiavo sempre le solite cose, adesso sto più attenta e gli esami ne hanno risentito in meglio, devo dire la verità. Quindi Flavio, un'esperienza positiva. In fondo la crisi ci aiuta, anche se ci costringe a fare un po' di conti, ma anche a un po' riequilibrare la nostra dieta. Dottor Gualerzi. Sì, diciamo che le due cose importanti che ha detto Flavio sono queste. In realtà, quando ci lasciamo trasportare dalla corrente e mangiamo quello che normalmente si mangia, è vero, la fettina, la carne, ed è molto semplice anche farla e, diciamo, non ci vuole molta fantasia. Quando si sposa una scelta vegetariana o tendenzialmente vegetariana, diciamo, sia per mangiare in modo corretto e assimilare tutte le sostanze nutrizionali, è importante variare tanto e quotidianamente. In realtà un vegetariano mangia in modo molto più variegato rispetto a quanto non fanno i carnivori puri, che mangiano spesso le stesse cose. L'altro aspetto è quello di fare delle associazioni come quella consigliata, in quanto è logico che chi è vegetariano può mangiare e mangia meno ferro, eme, quello dentro la carne, ma è altrettanto vero che tutti i legumi e tutti i vegetali contengono tantissimo ferro, quello non eme, che è assorbito e assimilato nello stesso identico modo di quello non eme e anzi ha delle proprietà anche maggiori, a patto che si aggiunga un po' di vitamina C che la faccia assumere. Quindi è logico che un vegetariano che ha questo accorgimento non sarà mai anemico e quindi avrà un'emoglobina e quindi gli esami di sangue perfetti, però, come ribadito, anche qui bisogna aumentare il livello culturale delle persone, perché sposare una scelta vegetariana senza sapere queste cose si rischia di fare dei danni alla salute. Certo. Dottor Gualerzi, è la donna di denari che le parla, ma non le farò una domanda di denari. No, mi chiedevo se in quanto a contenuto di ferro la carne rossa e la carne bianca si equivalgono. No, diciamo che la carne rossa contiene più ferro, il ferro appunto eme, anche se vale lo stesso discorso. Noi in realtà oggi non possiamo parlare di carenza di ferro o di altre sostanze, perché la nostra dieta è anche troppo ricca di sostanze. Spesso combinazioni, associazioni diverse, sbagliate, riducono l'assorbimento. Quindi non è che il problema è che la nostra dieta è carente di alcuni alimenti, spesso associamo e facciamo associazioni sbagliate che non ci permettono di assorbire il ferro e le sostanze che invece sono presenti. Dottor Gualerzi, lei ha parlato di scelte vegetariane, ma i consigli che lei ha dato riguardo ad esempio all'aggiunta del limone, della vitamina C per rendere il ferro più disponibile, sono naturalmente anche suggeriti alle persone che riducono la quantità di carne, questo secondo me non è un male assolutamente nella loro dieta, e quindi vogliono delle alternative, delle sostituzioni equilibrate. Andrei a Roberto da Cremona e poi passerei in rassegna con lei alcune delle credenze popolari proprio sulla carne. Si ricorda, no? Mangia la carne che diventi grande e forte, si diceva ai bambini. Ma vogliamo anche qualche combinazione, così magari stasera prepariamo una cenetta ad hoc. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io sono un coperturista, no? E quindi faccio i tetti dalla mattina alla sera. Coperturista. Consumo di muscoli delle gambe che è notevole. Quindi ho parecchie volte mal di gambe. Sì. E l'unico sistema per farmelo passare è integrare con i germogli di soia. Ah. No? Allora succede che pian pianino, e questo si verifica, ci vogliono 10 giorni, no? Prima che abbia effetto, perché ovviamente si devono accumulare. Però chi si deve accumulare? Non ho capito. Le proprietà, gli effetti dei germogli di soia. Ah, gli effetti del germogli, sì. Ecco, proporzionalmente mi cala il desiderio di assumere la carne. Infatti io ne mangio molto meno tutte le volte che io integro con i germogli di soia. Quindi lei, Roberto, ha trovato un po' il nostro ospite ideale, ha trovato delle alternative, delle sostituzioni, compensa. Dottor Gualerzi. Diciamo che i germogli di soia, la soia in generale, è una di quelle, diciamo, sostanze vegetali che contengono la quantità di aminoacidi più simile alla carne, quindi di per sé rappresenta un prodotto ideale da sostituire o comunque come sostituto della carne. In più i germogli, a differenza dei legumi, proprio invece del legume stesso, contiene più acqua e più vitamine, quindi probabilmente il radioascoltatore, più che avere un effetto di accumulo delle proteine, ed è vero che quelle vegetali sono più lente da assorbire, però sta anche riferendosi al fatto che stando sui tetti, quindi sudando, perdendo molti liquidi, si avvale del fatto che i germogli di soia contengono molte vitamine e molta acqua, molti sali minerali, e quindi la reintegrazione di questi sali minerali attraverso i germogli di soia, non quindi solo agli aminoacidi delle proteine, gli dà il benessere, gli toglie questa debolezza delle gambe che mi sembra più legato magari a una depressione minima anche di magnesio e di potassio, che è quello appunto che viene perso quando sudiamo e c'è molto caldo. Dottor Gualerzi, quello che a cui noi arriveremo è di consigliare delle combinazioni. Abbiamo parlato della carne dei poveri, i legumi devono essere però abbinati ai cereali, spesso in modo consigliato quelli integrali, per creare un mix equilibrato che può sostituire le proteine nobili, quelle fornite dalla carne. Ma questo vale anche per i bambini? Mi rifaccio al famoso, no, modo di dire delle mamme: mangia la carne che diventi grande e forte. Sì, diciamo che c'è un warning, c'è un allarme dell'Istituto Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci sta dicendo che stiamo mangiando troppe proteine, soprattutto i bambini. Una delle, diciamo, delle grandi azzate del fatto che i bambini tendano a diventare più grassi e più grossi è proprio lo smodato assunzione di proteine, soprattutto quelle animali. Allora ci sono dei dosaggi ben precisi, che per un bambino in età scolare, elementare, sì, i primi anni delle medie, dovrebbe essere circa di 15 grammi al giorno di proteine, no? E dovrebbero, diciamo, ripartire questo consumo quasi al 50% tra proteine di origine vegetale e proteine di origine animale. Ora, al di là di queste divisioni, quindi dare, non togliere completamente le proteine animali, ma abbinarle a quelle vegetali, noi abbiamo dei report che ci dicono che i bambini purtroppo in questa età ne assumono quasi il triplo, quindi quasi 35-40 grammi al giorno, e quindi quasi 3 volte l'apporto massimo consigliato. Voi capite che qualsiasi, anche se in questo caso derivassero da prodotti più, diciamo, salutistici come le proteine di origine vegetale, ne mangiamo veramente tanto. Quindi il primo, diciamo, messaggio è quello di ridurre un po' le proteine, siano esse animali o vegetali, quindi dobbiamo ridurle. E comunque, invece di affidarsi estremamente o solo alla carne, che appunto anche qui è un falso mito il fatto che ci faccia sviluppare, questo è più una credenza popolare, derivata dal fatto che in passato chi poteva mangiare carne apparteneva ad un ceto sociale, diciamo, più alto, e sì, quindi chi non la poteva mangiare è più povero, e quindi si è attribuito la differenze sociali, culturali e quindi anche energetiche a questa differente alimentazione. In realtà noi sappiamo bene che le differenze non derivavano da quelle, ma il fatto che i poveri non mangiavano la carne, facevano una dieta sempre monotematica, e questo creava, diciamo, deficit nutrizionali. Noi dobbiamo mixare bene quelle vegetali e quelle animali, soprattutto nei bambini, ma soprattutto limitarle, non superare i dosaggi consigliati. Allora, andiamo a sentire adesso un altro ascoltatore, Luca dalla provincia di Cuneo, poi dottor Gualerzi, vorrei anche qualche informazione sulle uova. Sì, che ci piacciono. Che ci piacciono, e vorrei capire appunto... E hanno qua sempre della mala stampa. Esattamente, io proprio qualche sera fa ho avuto un gran dibattito a cena con dei miei amici perché ho spiegato loro... Tu ti sei difesa però, mi sono vero? Difesa, ho spiegato loro come le ho introdotte per la colazione appunto mattutina. Ah sì, ma togli il tuorlo perché naturalmente devi prendere solo l'albume, perché sennò c'hai un sacco quanto ti sarà volato il colesterolo. Colesterolo, cosa che non è vera, perché e poi chiederemo sempre... anche al dottor Gualerzi questi abbinamenti, la pasta e ceci, pasta e lenticchie, pasta e fagioli, tra l'altro i fagioli, la loro stagione magnifica, io ne ho preparato una al bacio, però ci sono già ascoltatori che dicono beh, però la linea un po' va a farsi benedire. Ma andiamo a Luca dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Eccoci. Io volevo solo portare la nostra esperienza. Noi siamo una famiglia di tutti vegetariani, mia moglie è vegana. Sì. Noi 14 anni io e 16 anni mia moglie. Come anni. Io volevo solo, perché io capisco che voi adesso sia la trasmissione si è improntata un po' anche dal lato salutistico. Noi il 90% è dal lato etico. Sì, e per questo vi invito anche, se possibile, un giorno fare anche una trasmissione e magari invitare anche qualcuno anche di famoso o comunque. Guardi che Luca ma che ecco Nicoletta lì, non la coglie in castagna. Lì mi è caduto, è scivolato proprio sulla buccia di banana. Vada nel nostro archivio, abbiamo il professor Veronesi, abbiamo intervistato, abbiamo perché avuto. Era proprio solo per portare la mia esperienza. Mia moglie, la prima gravidanza che ha avuto da carnivora, quindi parlo di 23 anni fa, è dovuta rimanere in ospedale 5 giorni perché aveva carenza di ferro. Le altre due gravidanze che ha fatto dopo, che hanno 9 anni fa e 7 anni e mezzo fa, da vegetariana, bambini nati da vegè, lei non ha avuto nessun problema. Anemia, una bellezza. Allora, quindi questo a me piacerebbe un po' sfatare questa cosa delle proteine animali, perché è quello che abbiamo cercato un po' di farlo, di fare chiarezza. Non abbiamo cercato di sfatare niente, ma il dottor Gualerzi, ricerche alla mano, ci racconta che cosa dice la comunità scientifica. Intanto Luca, grazie, la invito ad andare sul nostro archivio dove troverà pane per i suoi denti, carotine, finocchiette, eccetera, in questo caso, e con le interviste che abbiamo fatto sulla scelta vegetariana e vegana. Allora, uova, dottor Gualerzi, abbiamo un minuto. Sì, allora le uova, logicamente diceva Deborah, è un ottimo alimento, contiene un sacco di proteine utili, nobili, contiene anche dei grassi come colesterolo, soprattutto nella parte del tuorlo. Il problema non è utilizzarle a colazione, aver paura di aumentare l'apporto di colesterolo, perché un'uova a colazione, diciamo, è un ottimo modo per iniziare la giornata. Il vero problema è che noi durante la giornata, senza rendercene conto, mangiamo tantissime uova che si mimetizzano all'interno dei cibi preparati dall'industria. Quindi dovremmo fare il conto, perché il rischio veramente è quello di mangiare troppo colesterolo, non sapendo tutte le uova nascoste all'interno degli alimenti che compriamo già preparati. Quindi ottimo modo per iniziare la giornata, un uovo, perché contiene molte sostanze, come abbiamo detto, utile per la nostra salute, ma attenzione, perché a contare veramente tutte quelle che mangiamo, perché molto spesso non ce ne rendiamo conto e ne mangiamo tante. Però un uovo, per chi non ha fatto una scelta vegana, naturalmente può sostituire una bistecca. Un uovo può sostituire una bistecca, perché esistono tutti e tantissimi proteine, aminoacidi di altissima qualità. Un uovo contiene 6 grammi di proteine e 9 degli aminoacidi essenziali per il nostro organismo. Senti, sei soddisfatto? Guarda, soddisfatto il portafoglio di chi segue questi suggerimenti anche. Assolutamente, proprio una rispostina, pasta e fagioli, pasta e lenticchie, insomma, la nostra linea si appesantisce? È caduto. Allora ci dobbiamo fare un'altra bella puntata. Magnifico. Su, ti suggerisco anche formaggi, perché stamattina in molti hanno chiesto anche delucidazioni sul consumo di formaggi, naturalmente corretto e equilibrato, e quindi dovremo dedicare una bella puntata a pasta e fagioli e formaggio. Dai, ci sono. Sono pronta, ci sto. A domani? A domani, io non ci sarò per qualche giorno perché mi prendo qualche giorno di riposo, vi lascio in ottima compagnia, in buonissime mani. Cara Nicoletta, ci ritroviamo intorno al 19 e il 20 luglio. Abbronzatissima, a poi presto. Facciamo le foto.